Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Alcune settimane fa noi abbiamo avuto ospite Marco Carini, che è un consigliere regionale emiliano romagnolo, perché è stato il primo, o comunque tra i primi, a sottolineare l'importanza e la necessità della creazione, dell'istituzione di una direzione investigativa antimafia in Emilia Romagna. Insomma, siamo a questo punto, cari radioascoltatori, al punto nel quale per fortuna ci sono politici, come vedete non ho detto nemmeno il colore perché non mi interessa, politici che hanno una grande sensibilità, e abbiamo visto che intorno a questo si è accumulato un interesse di altre parti politiche, che magari anche in opposizione, di magistrati. Insomma, il caso per fortuna sta montando e noi continuiamo a seguirlo. Perché? Perché è stato presentato alla Camera dall'onorevole Maino Marchi un'interpellanza urgente proprio al governo sulla necessità di costituire questa direzione investigativa antimafia in Emilia Romagna, quantomeno per sondare la disponibilità del governo. Ebbene, sentiamo qual è stata la risposta del governo. Voglio subito dare assicurazione agli onorevoli interpellanti che la richiesta della regione Emilia Romagna è già all'attenzione degli uffici responsabili del Ministero dell'Interno ed in particolare della stessa direzione investigativa antimafia. E questo perché la situazione della regione è una prova eloquente della necessità di un intervento immediato della DIA per prevenire fenomeni che, se non affrontati, se non aggrediti da subito, possono assumere aspetti patologici difficilmente controllabili. L'istituzione di un centro operativo DIA, infatti, in un contesto socio-economico quale quello dell'Emilia Romagna, può contribuire anche a prevenire possibili situazioni di criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, tenendo conto che la florida economia, caratterizzata da una elevata propensione imprenditoriale, può attirare gli interessi della criminalità organizzata, soprattutto nel settore degli appalti pubblici. Ecco, questa che avete ascoltato era la voce del sottosegretario al lavoro Luca Bellotti, che ha dato appunto questa risposta, mi pare abbastanza incoraggiante da parte del governo. Ma noi, per sapere se è incoraggiante o meno, abbiamo chiamato proprio l'interpellante, l'onorevole Maino Marchi. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Allora, la soddisfa questa risposta del governo, che noi ovviamente abbiamo dato in parte, ne abbiamo tirato fuori uno stralcio, ma chiunque volendo può andare sul sito della Camera e andare sotto le interpellanze e trovarla per intero? Sì, io mi sono dichiarato soddisfatto della risposta all'interpellanza, che voglio sottolineare non era un'interpellanza personale. Come interpellanza urgente ha bisogno di un certo numero di firme, era stata firmata da tutti i parlamentari del Partito Democratico dell'Emilia Romagna e da tutti i parlamentari del Partito Democratico della Commissione Antimafia. Mi sono dichiarato soddisfatto perché in sostanza nella risposta si è detto che il Ministero dell'Interno valuta favorevolmente, appoggia e sostiene la richiesta, ecco, di istituire un'articolazione della direzione investigativa antimafia. Ecco, mi pare di capire che ci sia un consenso bipartisan, no? Cioè, la risoluzione era stata, esatto, nell'assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, era stata approvata all'unanimità, quindi da tutte le parti. Esattamente. Il sottosegretario ha manifestato problemi sia sul versante logistico che sul piano del personale, quindi non è che noi abbiamo già no. Il problema. Certo, c'è un percorso che è iniziato, diciamo, esatto, così. Esatto, è un percorso iniziato che ha una manifestazione di volontà politica positiva, quindi questo noi l'abbiamo, io l'ho sottolineato come un aspetto molto positivo, dopodiché seguiremo passo a passo l'evoluzione della situazione perché riteniamo che sia davvero importante. Ecco, ma io vorrei chiedere questo qui: avete anche in qualche modo, come dire, cronologizzato e calendarizzato i tempi di questa operazione? Perché lei ha ragione nel dire, il governo avrà ragione nel dire, non è una cosa che si può fare dall'oggi al domani, ma santa Madonna, se si costruisce un ponte in Giappone in 40 giorni, no? Voglio dire, non ci sarà bisogno di 20 anni per trasferire del personale, per trovare una palazzina, mattina e per dare un segno immediato, perché la criminalità, l'orologio della criminalità economica organizzata va avanti, non è che aspetta, no, la risposta dello Stato. Certo, nelle modalità con cui funzionano le interpellanze c'è la presentazione a parte dell'interpellante, la risposta a parte del governo e poi la manifestazione di soddisfazione o meno, certo, a parte dell'interpellante. Nella risposta del governo non c'era un tempo definito. Io, nel dichiararmi soddisfatto, però ho chiesto che si dia anche una risposta dal punto di vista della concretizzazione in tempi brevi e, ripeto, manifestando anche la disponibilità alla piena collaborazione che il presidente dell'Emilia Romagna, Vasco Errani, nel momento in cui ha presentato all'attenzione del ministro dell'Interno la richiesta che era stata avanzata dall'Assemblea legislativa, ha manifestato anche questa piena disponibilità alla collaborazione. Alla collaborazione, questo quindi, è molto. Sì, io credo che ci sia sia da parte della regione che da parte di tutti gli enti locali. Benissimo. Quindi, i problemi che ci sono, si tratta di vedere come poterli affrontare, ma credo che, spero e auspico che in tempi brevi questo possa avvenire. Ci sia questa risposta. Io ringrazio per l'attenzione l'onorevole Maino Marchi. Ovviamente noi di Radio 24 con questo programma continueremo a seguire la vicenda e l'evoluzione della costituzione della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, in Emilia Romagna, quindi ne seguiremo gli sviluppi, spero positivi. Grazie in regia Paolo Corleoni e in studio Laura Faggina e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.